Avventurieri, prima di proseguire dovrete fare scorta di provviste. Per fortuna qui non mancano né cibo né acqua. Il villaggio più vicino si trova a 2 giorni di cammino, quindi dovrete portarvi tutto il necessario per il viaggio. Tenete a mente che una persona comune consuma in media 2,5 kg di provviste al giorno. Tuttavia, un druido necessita di 3 kg al giorno, mentre un mago si accontenta di 2 kg. Calcolate attentamente quante provviste vi serviranno in totale, per non restare senza, ma nemmeno appesantirvi inutilmente.